distante con i miei pensieri, sono lontani i giorni di ieri, di quando sprecavamo il nostro tempo migliore, ne avevamo tanto musica, parole di amore. Caro amico mio, gli anni sono volati via senza tregua, e se adesso volessimo tornare indietro, il tempo ci riderebbe dietro, avremmo potuto essere dei re, il tetto del mondo io e te. Time and time again we are going back, then forward again we run, we fight, we lay in the sunlight, we watch the clouds, we light the rain, we sing our songs again and again. Spaventano, siamo spiriti liberi sulle ali del vento. Caro amico mio, giorni del vino sono distanti, e la terra gira sempre in avanti, avremmo potuto cambiare la nostra vita, un po' in discesa e un po' in salita.